torno a pregare il signor colonnello. Il signor colonnello dorme a quest'ora. Prego lei, allora, d'ordinare che l'artiglieria apra il fuoco. I grossi calibri dipendono dal corpo d'armata. Dia l'ordine alla batteria da montagna e telefoni se crede al corpo d'armata. Come? Come? Non capisco. Pronto? Pronto? Va bene?